nomi non mancano mai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Pierluigi Pardo. Digam, come va? Benissimo, oggi mi sono intrippato con gli stipendi dei giocatori. Preparati, eh? Bene, bene. Gioca la nazionale. Sono lì ieri? Oh, eh? Sono lì ieri con gli stipendi. Sì, mi fa impazzire. Oggi l'abbiamo letto io e Franco Piantaneda, ridevamo come matti. Per non piangere. 8-0-0-24. Sto leggendo adesso di Ibrahimovic che ieri in Austria-Svezia 1-1 ha dato una gomitata ad Alaba, difensore del Bayern Monaco, e poi ha detto adesso datemi 40 giornate se ne avete il coraggio. Senti, sai chi è il giocatore più pagato della nazionale italiana che gioca stasera? Daniele De Rossi, 6 milioni e mezzo l'anno. Bravo, sei preparato. Sì. E quello che prende di meno? Prende di meno potrebbe essere fra i titolari? Sì. Tra i titolari, allora, un po', sicuramente, storia di Ranocchi, Zazza. No, Darmian. Darmian, Darmian che chiama 500.000 a Urbano Cairo dal Torino. Zazza quanto prende? 800. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori, 8 giocatori sopra il milione di euro. Ti faccio la formazione di stasera. Sì. Buffon 4 milioni. Difesa 3, Astori 1,6, Bonucci 2 zucche, Ranocchia 2 milioni e 2. A centrocampo c'è il paperone De Rossi, circondato da De Sciglio che ne prende 1,5 dal Milan, 2 milioni per Giaccherini dal Sunderland, e non è un brutto prendere. No. E poi abbiamo i due, le due Cenerentole, Darmian 500.000 e Florenzi, che la Roma paga 600.000 euro all'anno, e mi sa che un rinnovo prima o poi s'avrà da fare a questo capitolo. In attacco, Immobile, che l'altro giorno ha segnato il suo primo gol in nazionale, non dimentichiamolo, è confermato accanto a Zazza, che ne prende 800.000, Immobile 2 milioni e mezzo all'anno. Ti piace questa squadra? Una squadra in qualche modo proletaria, che se fa ridere detto dopo questo, no, dopo aver sentito, sì, fa abbastanza ridere, l'ho detto apposta, però insomma alla fine è una squadra formata da giocatori, ecco, il mio amico tassista che mi dice una squadra di corsa, vero? È una squadra di corridori, squadra di corridori con grande attitudine al lavoro, alla fatica, ovviamente, parlando ovviamente di della fatica di chi gioca a pallone, però è comunque la fatica fisica, quindi no, mi piace perché io mi fido molto di Conte e penso che se sceglie questa squadra è perché evidentemente questi sono quelli in questo momento più in condizione. Abbiamo un po' di inserimenti da parte dei centrocampisti, Giaccherini, soprattutto Florenzi. Abbiamo una buona qualità di corsa sulle fasce, abbiamo la difesa 3 che in questo momento forse è la soluzione più semplice per i tre interpreti, Ranocchia, Bonucci e Astori, quindi sì, mi sento abbastanza sereno. Poi d'altra parte a Conte abbiamo aperto un conto corrente di fiducia illimitato in questo momento. Io però l'ho detto al giorno zero, quindi, no, ma anch'io lo sai. Lo dico oggi perché poi magari stasera nazionale speriamo di non perdere torpeggia e quindi sì. Domani no, può attingere a piene mani dal conto corrente col fido e tutto, quindi a Conte abbiamo aperto, ma giustamente un conto corrente di fiducia illimitato. Poi però qualcuno magari dopo il traffico che stiamo aspettando già con ansia, io parlo, si sceglie anche oggi la nostra coda preferita e la vostra coda preferita, naturalmente, con Franco Piantaneda, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia e Claudio Schiattoni in redazione. Dopo il traffico però magari qualcuno mi spiega perché squalificato Marchisio gioca a Florenzi, giocatore che mi piace tantissimo. Magari qualcuno mi spiega perché Verratti è ancora in panchina. Che deve fare questo per giocare in nazionale? Tutti convocati. Ci sarà sempre un passo in avanti nei confronti delle società, degli allenatori, anche perché è giusto che ci sia un grande spirito di collaborazione. Se abbiamo voglia tutti insieme di riportare la nazionale ai livelli che merita, perché noi abbiamo veramente bisogno di tutti, ecco. Qui non può esserci una singola persona, qui siamo tutti quanti insieme sulla stessa barca e c'è bisogno veramente di trovare quell'unità di intenti fatta sul rispetto reciproco, sulla comprensione, sulla disponibilità. Poi può capitare nel percorso degli episodi che possono anche esserci dei fraintendimenti. Tanto mentre anche la Norvegia avversaria di oggi forse non è più quella di qualche anno fa quando aveva giocatori di buon livello, ha comunque una squadra estremamente multietnica, no? Leggevo dell'attaccante Joshua King, padre gambiano e madre norvegese, cugini gli Anussi, Tariq e Mohamed che sono nati in Marocco, le radici anche l'esterno destro Omar, poi c'è Ola Kamara, nato in Norvegia ma figlio di un rifugiato della Sierra Leone. Io intanto ho sempre ascoltatori che scrivono, Pier, sì. Sempre ascoltatori che scrivono sull'SMS, fantastica questa nazionale, sempre meglio di quella vostra con Cassano e il diversamente italiano, capito? Giovanni, proprio alla luce di quello che dicevi prima, sì, ma tra l'altro ai detrattori di Balotelli, a quelli che lo hanno intanto, non conviene assolutamente, a parte che insomma, questa cosa confina un po', questa battuta confina un po' con il razzismo e non mi piace a prescindere. No, non è che confina, comunque, sconfina. Ecco, sconfina. Da retta me, ma non conviene comunque mettere questo argomento, perché questo argomento, se ci fate caso, è stato l'argomento che Balotelli ha utilizzato a propria discolpa, e secondo me non c'entrava zero, dopo un fallimento tecnico al mondiale, che ovviamente non riguarda soltanto lui, del quale non soltanto lui era colpevole, ma del quale lui era colpevole esattamente come gli altri, sì. Quantomeno esattamente come gli altri. Quindi questo confondere i piani è veramente una cosa assurda. No, ma poi ormai è superata, stucchevole. Guardiamo avanti e chiediamo, salutiamo Max Nerozzi dalla stampa. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ciao, che si trova a Oslo. Che si trova a Oslo, provincia di Marrakesh, stavamo dicendo, e al quale voglio chiedere, mentre c'è Daniele Pasetto che ci odia perché è sulla A4 a Soave da un'ora in coda, ma questo non riguarda Max Nerozzi, al quale voglio chiedere che cosa deve fare Verratti per giocare nella nazionale italiana. Bella domanda, mo aspetta il ritiro di Pirlo, vince il ballottaggio con Pirlo. Ma adesso momento, Pirlo non c'è. Oggi Pirlo non c'è. Sì, gioca De Rossi, nel senso che da quando Conte si è insediato, era chiara una cosa, che tra Verratti, Pirlo e De Rossi giocava uno solo, due se De Rossi viene spostato al posto di Bonucci. Questo è quanto. Ma intanto, cioè, io non vedo alcun conflitto di interesse tecnico-tattico tra De Rossi e Verratti, Pierluigi. No, infatti potrebbe giocare chiaramente con Verratti, Becker e con De Rossi intermedio, cosa che si è fatto spesso con Pirlo, titolare in nazionale, però io qui ribadisco, per il mio è un atto di fede, io penso che sicuramente Verratti fa un buonissimo, di credo mondiale, ed è quello che è uscito meglio assieme a Darmiani e a pochissimi altri dal mondiale, certamente al futuro dalla sua parte, certamente al talento, però insomma io non credo che sta portando un'ambulanza, ecco. Sì, mi stai facendo lo scherzo quello di Marchetti, cioè quello del telefono che va e viene, di no, realtà. Mi senti, no? Mi senti? Come al solito, perfettamente. Ma come? Guarda, non sai quanto stanno scrivendo. Vabbè, comunque volevo dirti, quindi insomma, qui bisogna fidarsi di Conte, secondo me. Certo, in assoluto, in prospettiva, se quello che dice giustamente De Rossi verrà confermato, sarebbe un peccato, perché ecco, averne uno fra Pirlo, De Rossi e Verratti significa secondo me togliere del talento, però ripeto, io non penso che Conte farà delle scelte masochiste. No, ma certo, abbiamo aperto. Scusami Carlo, dimmi Max. Scusa se ti interrompo, no, tu prima mi chiedevi, ovviamente non è la mia opinione ma quella di Conte. No, chiaro. Io sono d'accordo con voi, nel senso che a livello assoluto, io se stiamo anche a prendere il mondiale, Verratti è l'unico italiano che ha giocato i quarti di Champions da titolare, è ovvio che dovrebbe giocare. Voi sapete benissimo che Conte, però dal punto di vista ideologico e tattico, è un pass da run, cioè nel senso che ha cambiato 4-2-4, adesso siamo 3-5-2, e Verratti è un grandissimo giocatore, ma dirò un'eresia, in questo modulo qua, per come gioca l'Italia, per come vuole giocare Conte, Giaccherini, se non è meglio, è più funzionale di Verratti. Conte ha detto, tra virgolette, vi ricordate, provanda, sì, sì. Verratti con me, mezzala, non può giocare. Ora ci gioca nel PSG, ci gioca nel PSG di fianco a Thiago Motta, ma non gioca come tale Pogba. Dopodiché faccio 8 passi avanti, nulla ci esclude il destino che Conte possa fare come ha fatto con la Juve. Lui parte in un modo, trova Vidal che è insostituibile e dice vabbè, per far giocare Vidal, Marchisio, Pogba e Pirlo cambia il modulo. Questo certo, non lo so, però è il discorso dell'uovo e della gallina, giocano quelli bravi o giocano quelli funzionali al modulo. Mi ricordo una discussione su questo proprio a chiusa Pesio, residente località del Piemonte, proprio con De Rossi nell'estate del 2011, quando cominciavamo a renderci conto che Vidal stava sbocciando e insomma in qualche modo si capiva che Conte avrebbe cambiato da lì a poco, quantomeno ci avrebbe pensato. No, io Verratti lo vedo comunque soprattutto playmaker, cioè più che intermedio al posto di Giaccherini o di Florenzi. Io nella squadra di oggi lo vedrei centrale di centrocampo con De Rossi e uno fra Giaccherini e Florenzi che fa l'intermedio lì vicino. Detto questo, ribadisco l'atto di fede e vediamo che succede stasera. Su Verratti c'è ovviamente grandissima stampa a favore, io mi iscrivo a questa partita, nel senso che il giocatore piace molto. Devo dire che in nazionale è il giocatore che sta incontrando più resistenze di quelle che era lecito pensare, anche nella gestione Prandelli. Anche la gestione Prandelli, e viene sempre da domandarsi per quale ragione, perché ricordo l'esordio di Vidal alla Juventus con Conte che non lo voleva, a un lontano trofeo Berlusconi, e Vidal piazzato all'ala destra, all'ala destra, giocò una pessima partita, tanto che mi venne il dubbio, ecco, Conte ha voluto dimostrare, Vidal non l'ha preso lui, ha voluto dimostrare che è un giocatore che non gli serve. Invece poi, essendo uno intelligente, si è reso conto che gli serviva. Come c'è Marco che domanda, Max, se Conte è quella stessa persona che attaccava Prandelli per Chiellini convocato anche se infortunato. Sì, sull'apro chiudo parentesi, purtroppo devo ammettere che Pardo a Bardonecchia 2011, tra noi tutti esegeti e scolaretti della Juventus, Pardo arrivò e fu prima a dire vedrete che la Juve giocherà tra i mezzi al campo. Chiusa parentesi. No, chiusa parentesi, no, è vero, infatti è un po' la cosa divertente questa settimana, se no noiosissima, della nazionale. Cioè Conte era uno che quando era allenatore di club ideologicamente avrebbe rasso il suolo coverciano, perché gli rubavano i giocatori e non poteva insegnargli. Adesso sta dall'altra parte, è ovvio che Chiellini gli avrebbe fatto comodo, al di là di quel che dice Tavecchio, Lotito e compagnia, insomma. Io su questo ciclo corso della nazionale infatti sono molto curioso di vedere come si metteranno i club verso il club azzurro, dove c'è un allenatore che è accentratore, dove c'è un presidente ombra accentratore anche lui per altri motivi, e ci sono alcuni club che per questo sono arrabbiati e quindi sarà divertente vedere i rapporti. Cioè, per presidente ombra intendi che quello che ieri aveva il Montgomery e l'altro giorno il Kiwi? Il Montgomery sì, no, però avevano portato l'ombrello eventualmente piovesse, come diceva alias Tavecchio. Per chi non avesse capito, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ma penso che abbiate capito anche voi. 800 24 00 24, numero verde. Credo che Piari i club si metteranno dove si sono sempre messi, cioè a tutela dei loro giocatori, però conterà molto anche la volontà dei giocatori in questo caso. Io percepisco una gran voglia di andare in nazionale in questo momento. È quello che in qualche modo Bonucci ha fatto capire, cioè che Chiellini era quantomeno non contrario all'idea di rimanere con la nazionale di passeggiaggio in Norvegia, è un'ulteriore dimostrazione di tutto questo, e c'entra molto con il carisma, o carisma come dice Buchini, del leader, dell'allenatore della nazionale. E questa è una parte dei misteri della vita, no? Dalla simpatia al carisma, fa parte della personalità che alcune persone hanno e che altre non hanno. Chiaramente Conte arriva ai nazionali conosciuto molto dai giocatori della Juve, con i quali già ha vinto molto, conosciuto dagli altri che hanno magari la curiosità di vedere com'è essere allenati da lui. Io non vedo neanche una grande contraddizione onestamente col passato, nel senso Conte chiaramente quando stava dalla parte del club lottava per avere i giocatori dalla parte del club, adesso sta dalla parte nazionale e lotta per avere i giocatori, cioè è esattamente perfettamente normale, hai ragione, perfettamente semplice gioco delle parti. Pierluigi, Max, tra altre cose c'era una perfida battuta nei confronti di Allegri, che insomma deve essere contestato, che girava ieri su internet, degli juventini che per la prima volta invocavano Isteso a Coverciano per dare una registrata alla difesa della Juve. E quindi sì, insomma, non è male, non è male. Però qui onestamente, avendo vissuto una sola gara ufficiale fino adesso, molto molto convincente, come quella di Verona, io invece credo che... Io a Verona ho avuto la sensazione, chiaramente manca almeno 37 verifiche, ho avuto la sensazione per un attimo sospetto di dire, beh, ma allora forse lo spirito vincente, la cattiveria agonistica, la voglia della Juve che abbiamo visto in questi anni e che in tanti abbiamo giustamente imputato per buona parte ad Antonio Conte, forse è proprio un marchio di fabbrica di questi giocatori e ci potrà essere anche con Allegri. Ovviamente aspettiamo già sabato per avere la seconda verifica. Senti, ma l'ultima cosa che voglio chiedere a Nerozzi dalla Norvegia è se ha assaggiato la balena, se ha assaggiato il filetto di balena. No, mi manca il filetto di balena. No, abbiamo fatto il tambaqui quest'estate in Brasile, ma no, la balena ti manca? Manca. Pardo? Sì, l'hai assaggiata la balena? No, perché non mangio i miei simili e quindi sarebbe un atto di cannibalismo. Dai Max, fammi un pronostico, poi ti lascio andare. 2-1 per l'Italia. 2-1 per l'Italia, quindi becchiamo un gol e Conte si incazza come una iera. Facciamo così. Grazie Max, buon lavoro. Ciao a voi. Ciao. Lo becchiamo sul 2-0, lo becchiamo nel finale. Ma si incazza uguale, No, certo. Dirà che abbiamo sofferto, non dobbiamo metterci in queste condizioni. È una partita che era sotto controllo, non possiamo tollerare. Ecco. 8-0-0-24-0-0-24, la partita importante. Speriamo che non sia agghiacciante, eh? No, speriamo di no, anche se in Norvegia un po' di ghiaccio ci può stare, a settembre magari un po' meno. Sì. Comunque no, c'è grande curiosità. Guarda, io adesso stavo riflettendo proprio sul fatto che tutta questa estate, nella quale si è parlato di nazionale come mai prima nella storia del calcio italiano, almeno che mi ricordi io, che ormai comincia a pensare anche alla certa età, insomma, questo tipo di estate ci porta veramente stasera ad avere un'adrenalina che è abbastanza clamorosa per una partita oltretutto per una partita di settembre format, lo dico con chiarezza, di qualificazione mi fa orrore, nel senso anche che, a me, per carità, si vede tantissimo calcio, però poi alla fine si qualificano 24 squadre cioè, che sono pure troppe per un campionato europeo. Partite come Estonia-Slovenia rischiano di diventare gli spareggi per poter andare almeno al playoff, quindi insomma devo dire onestamente sì, vabbè, che abbiamo parlato ieri con Gianni De Biasi, che tra l'altro oggi campeggia su tutti i giornali con questa impresa dell'Albania in Portogallo. È vero che le frontiere del calcio si allargano come vuole Platini, è vero tutto quanto, è vero che arrivano nuovi soldi eccetera eccetera eccetera, però è molto annacquata la qualificazione ed è molto annacquato anche un europeo a 24 squadre, diciamocelo. Prima della borsa, quanto guadagna Zuniga? Zuniga guadagna un sacco di soldi, 3.200.000 euro, perché ha fatto il rinnovo contrattuale l'anno scorso a fine settembre e con le offerte che arrivava all'estero si è fatto male il giorno dopo. Ero a Londra, tra l'altro, col Napoli, per andare al Napoli, ma infatti è molto divertente vedere gli stipendi, perché ci sono delle anomalie, perché sì. Anche i 6 milioni e mezzo di De Rossi, che comunque è un giocatore di primissima fascia, per carità, ma come valore assoluto probabilmente non me ne voglia, non è il giocatore che è numero uno che abbiamo in Italia, anche se è di fascia altissima. Però quello stipendio lì arriva proprio dal fatto che c'era il rischio di perderlo a parametro zero. Sì, insomma. Sì, no, ci sono queste cose. Poi Florenzi, che ne prende 600.000, un giorno andrà là e dice: ma come? Meno di un decimo del capitano? Vabbè, il capitano è il capitano, ma io meno di un decimo non ci sta. 8-0-0-24-0-0-24, borsa, poi torniamo. Lo Tito è un consigliere federale. I consiglieri federali sono sempre andati, chi più e chi meno, a vedere la nazionale. Sicuramente in campo non ci andrà nessuno, quindi non ci andrò neanch'io, quindi andremo in tribuna a vedere la partita. Presidente, verrà anche a Oslo il titolo? Non lo so, penso di sì che verrà. Se, penso che verrà. Tutti convocati. Attenzione! Gol di Dino Baccio, siamo in vantaggio al 23esimo del secondo tempo. Dino Baccio peppa i giganti della Norvegia e mette dentro il gol. Preoccupazione nella nostra retroguardia, ora però la Norvegia si è aperta, attenzione, Vieri, tira, goal. Sì, grande, goal. Grande Vieri, grandissimo, Vieri. Ha segnato in tutte le gare fino adesso, questa è la nostra fortuna. 18esimo del primo tempo, Christian Bieri, approfittando dell'unico momento in cui finora la Norvegia si era sbilanciata, l'ha pulita. Ma sapete quanto io tenga, no, alla vittoria, al fatto comunque di poter lavorare sempre con un unico obiettivo, quello di arrivare comunque a vincere. Detto questo, la storia della Ferrari è una storia molto bella, in cui ci sono tantissime vittorie, però ecco, so che in questi anni sono stati fatti a livello di plusvalenze economiche cose molto molto importanti, però niente, sì. Noi ci auguriamo che la Ferrari possa tornare a vincere, possa fare sia una cosa che l'altra. La Ferrari per noi rappresenta un po' quello che rappresenta la nazionale italiana, no? Cioè per il paese. Conte e la Ferrari, Dino Baggio nel 94, mondiali, Vieri nel 98 pure, non, però con la Norvegia storicamente facciamo fatica, queste sono state le ultime due ufficiali. Smentisco Enrico che scrive, che domanda via sms, ma se al posto di Lotito ci fosse stato Gagliani in quel modo invadente cosa avreste detto? Coda fra le gambe, tutti zitti, per niente. Aspettiamo Gagliani col giubbotto dell'Italia e poi diciamo le stesse cose. Tra l'altro Gagliani ha difeso, uno di quelli, Pierluigi, che ha difeso la presenza di Lotito, no? No, ma io dico, insomma, ne ho parlato veramente tutti i giorni di Tavecchio, di queste storie. Qui il punto è un altro, secondo me, ed è un punto di comunicazione. Ma poi fanno come gli pare. È chiaro che Tavecchio è stato sicuramente scortato da Lotito nel momento più difficile dal punto di vista mediatico della sua elezione, però insomma, se il suo obiettivo è quello che in qualche modo ho cercato di capire l'altro giorno, e cioè il fatto che sicuramente Lotito è un consigliere come tutti gli altri, non c'è un rapporto particolare, poi il fatto che sia così presente sempre vicino a lui invece va da un'altra parte, va in un'altra direzione. Claudio, questo ci sono dubbi. Claudio, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie. Volevo semplicemente fare questo tipo di intervento. Io parto dal presupposto sulla scelta di Conte come allenatore come CT della nazionale. A me è piaciuto molto l'approccio che lui ha avuto, a prescindere dalle simpatie che qualcuno può avere per lui oppure meno per i suoi trascorsi. Io dico solo che lui è partito da un presupposto, che è quello di guardare prima l'uomo rispetto al calciatore. Questo io lo trovo, secondo me, il punto di partenza per far risorgere il calcio italiano, perché indubbiamente negli ultimi tempi si è più badato alla figurina piuttosto che al tra virgolette marketing. Invece lui è approcciato dicendo: io prima di tutto guardo l'uomo, e secondo me un esempio pratico ce l'abbiamo nel 2006 quando Lippi ha scelto gli uomini, e pur non avendo una squadra diciamo tecnicamente superiore a tutte le altre ha portato a casa il risultato. Per cui secondo me come punto di ripartenza è quello che ci vuole. Sì. Io vi chiedo semplicemente se è un'opinione che si può condividere. Ma secondo me stiamo parlando alla fine, il discorso gira intorno ad un giocatore che sappiamo bene chi è, perché gli altri erano tutti più o meno anche ai mondiali, no? Di questa formazione: Buffon, Ranocchia, Bonucci, Darmian, De Rossi, De Sciglio, Immobile, erano poi gli stessi uomini di Prandelli, non sono molto diversi, no Pier? Sì, infatti io credo che condivido. Maurizio, provincia di Ascoli. Sì, pronto. Pronto. Sì, buonasera. Allora, io torno un attimo sul discorso di Chiellini, che fosse già trito, però il fatto che si parli di un infortunato che dovrebbe dare un supporto psicologico, un allenatore poi che ha una forte leadership come Conte, mi sembra un'assurdità, perché a questo punto gli infortunati, soprattutto i grandi giocatori infortunati, dovrebbero essere convocati a prescindere, perché dovrebbero dare una mano alla nazionale, mi sembra una polemica che non ha un grande senso. Sì, è sterile, anche secondo me. 800 24 00 24, per dire la vostra su questo e su altro, è una polemica sterile, no? Piero, anche se Lippi tutte le volte racconta di quella famosa volta che chiese a Totti, se non ricordo male, che era infortunato, di raggiungere il tiro della nazionale, forse a Napoli, per far quattro chiacchiere, stare col gruppo, eccetera. Sono cose che ci possono stare, ma insomma, un giocatore infortunato torna a curarsi, non vedo niente di strano in questo. Infatti la polemica, devo dire, poi insomma, una volta dopo essere divampata un po', anche perché, come ricordavo l'altro giorno, era insomma una serie di giornate dal punto di vista anche mediatico abbastanza morbide, per cui magari ci fosse molto di cui parlare, e questo secondo me è un po' inciso. Ma insomma, al di là di questo, sì, non ci sta che Chiellini sia tornato a casa. È anche un momento particolare sicuramente, perché è l'esordio per Conte, perché appunto, come diciamo prima, tutti si tengono a essere parte di questo progetto. Chiellini sicuramente non era contrario, poi abbiamo capito da Bonucci. Insomma, c'era un insieme di elementi, poi se vuoi la madre di tutte le tecnologie, il fatto che comunque questa è la federazione da vecchio, sì. E Agnelli si era opposto, quindi e quella è la squadra, e quella è l'ex squadra di Conte. Ecco, capito? Quindi c'è tutto un insieme di elementi che secondo me hanno contribuito a fare tanta guanta, diciamo noi a Roma, per questa storia, no? Quindi è venuta fuori tanta bella ciccia sulla quale poter polemizzare, ma in realtà poi la questione è molto molto semplice, infatti è stata risolta alla fine in maniera molto, certo, molto, certo, banale, ecco. Certo. E non mi pare che Conte si sia arrabbiato più di tanto per... Ma no, ma io lo trovo, ma insomma, io trovo corretto. Conte è stato dall'altra parte, ora è da questa, eccetera. Io trovo del tutto normale che se un giocatore non sta bene, invece andare in giro per l'Europa a fare gruppo a questo livello, non credo ce ne sia l'esigenza, neanche di apprendere lezioni, chissà quali lezioni tecnico-tattiche, visto che si conoscono da 10 anni. È giusto che torna a casa, si cura e alla prossima è convocato e gioca, no? Quindi mi sembra veramente follia tutto questo casino che si è fatto intorno al ritorno di Chiellini. Maurizio, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, mi tenete compagnia, che io sono autista. Comunque niente, volevo intervenire sul fattore Conte. Conte è troppo intelligente per fare certe cose, cerca di spostare le sue attenzioni sulle polemiche che lui vuole far succedere, in effetti, perché ha un carattere proprio così. Oh. Così? Bene? No, non ho capito la fine del discorso. Lui cerca di spostare il problema per non fare attaccare calciatori e tutto il resto, quindi no, la polemica di Chiellino è stata una cosa voluta, secondo me. Sì, ma non credo sia stata una cosa voluta, credo sia stato un gigantesco misunderstanding, e poi come dice, ha ragione Pardo, sì, senza nascondersi, insomma, sono giorni in cui siamo orfani del campionato e quindi anche un discorso marginale come questo diventa tema di dibattito. Carlo, Conte da questo punto di vista non sembra particolarmente scientifico, cioè non mi sembra Mourinho, ecco, non mi sembra che abbia dietro una programmazione... una strategia di comunicazione così precisa come quella che aveva e ancora Mourinho. Mi sembra più certamente un allenatore polemico che non rifugge la polemica quando c'è qualcosa che non gli va, lo dice con grande forza, grande veemenza, ma non mi sembra da questo punto di vista che sia molto studiato. E qui mi sembra onestamente che veramente, come detto prima, ci sia poco materiale, nel senso, sì, no, non c'è materiale. Semmai c'è stata poca comunicazione, ecco, questo sì, insomma, la cosa poteva essere risolta magari in 5 minuti piuttosto che in un giorno, e quindi poteva non nascere il caso. Sì. Senti, abbiamo il traffico che è un cut, come sai. Poi parliamo di Napoli, perché io voglio capire una cosa, al di là della nazionale di Zuniga che prende 3 milioni e 2 più di Amsic, che ne prende... Aspetta che te lo dico, Amsic ne prende 3, Caleon 2-6, Martens 1-2, vabbè, capo classifica Higuain 5,5, questo solo all'interno del Napoli, Zuniga guadagna quanto un quarto dell'Empoli, però voglio capire come può Rafa Benitez andare una settimana in vacanza a Liverpool. È una domanda che mi sono fatto e adesso voglio una risposta dopo il traffico. Convocati. Allora, parlo di adesso, voglio capire cosa fa Benitez in vacanza, perché mercoledì 3 è andato a Nyon, dove c'era il forum dell'UEFA per i super allenatori europei. Poi ha detto, sai che c'è? Vado in vacanza a Liverpool, tanto c'era nazionale all'avio della mia famiglia, oggi Napoli fa allenamento, poi ha 24 ore di riposo e bello bello Benitez tornerà. A chi posso chiederlo se non a Raffaele Auriemma? Ecco, questo. Buongiorno a tutti. Raffaele, ciao. Beh, l'hai un po' romanzata sta storia, però, eh? E come romanzata? C'è o non c'è? Benitez non c'è. No? Benitez non c'è, però il motivo per il quale è andato 7 giorni a Liverpool noi non lo conosciamo, non è che ci ha comunicato. Vado lì perché devo prendermi una vacanza. Sì. Potresti che abbia dei problemi familiari, personali. Cioè, fino a quando non sappiamo il motivo reale per il quale ha lasciato la squadra ai suoi vice, però dovrebbero anche dirlo o no? Cioè, se sarebbe il caso di sapere, che non è normale che un allenatore, ok, se faccia un comunicato, dicono ok, Benitez impermesso a Liverpool per problemi familiari, che non è il caso di precisare, va benissimo anche questo, però non è normale che questo si prenda 8 giorni di vacanza in questo momento dell'anno. Ma non, concordi? Non c'è dubbio che sia insolito, sono d'accordo con te, però noi non conosciamo realmente cosa sia accaduto, tanto da spingere Benitez a lasciare la squadra per questa settimana. Quindi se no si fa un po' troppa dietrologia, quindi, cioè tu dici non è il caso di essere maliziosi, così, sì, magari si può essere maliziosi liberissimi, però non è che possiamo dire ha deciso di andarsene in vacanza e ha salutato tutti. Pardo, sei malizioso tu? Pier? No, non sei malizioso, più che altro non te sento. Non è raggiungibile più che malizioso. Più che non malizioso è non raggiungibile. Vediamo, Pierluigi ci sei? No, non c'è, va bene, lo recuperiamo subito. Intanto a Raffaele chiedo se al di là di questa vacanza, di questo permesso di Benitez, a Napoli è tutto tranquillo. A me non sembra così, a vederla da fuori. No, ovviamente no, perché il mercato del Napoli non è stato tale da corrispondere a quelle che sono state le dichiarazioni fatte in ritiro. Se De Laurentiis dice in ritiro quest'anno lotteremo per lo scudetto, secondo me l'ha fatto perché aveva in mente un certo tipo di mercato che poi non è andato a buon fine. Perché non sia andato a buon fine non sappiamo. Perché invece di Mascherano sia arrivato David Lopez, prima o poi lo verremo a sapere, sì, e ce lo spiegheranno. Sì. Tanto che poi recentemente ha anche un po' parato il tiro, lo ha spostato dicendo prima o poi lo vinceremo questo scudetto. Secondo me non è che è matto De Laurentiis che in ritiro dice una cosa e poi a fine mercato non la conferma. Credo che non tutte le componenti siano stati utilizzati al meglio per questo mercato del Napoli, mercato che si è chiuso il 1 settembre alle ore 23, ma ha lasciato ancora una striscia di polemiche tra i tifosi che non considerano la squadra competitiva per ciò che aveva detto il presidente. Sì, non competitiva per ciò che aveva detto il presidente, e l'obiettivo dichiarato è lo scudetto. Mi sembra un Napoli grosso modo come quello dell'anno scorso. C'è stata qualche uscita che non è stata colmata, appunto, al negozio dei giocattoli del mercato, però la sensazione che continua ad avere è che qualcosa all'interno, lasciamo stare gli interpreti, però qualcosa all'interno del gruppo Napoli non stia funzionando nel migliore dei modi. È tornato Pardo? Sì, stavo sentendo fra l'altro in radio. Il Napoli ha fatto campagna qui il 7 maggio. Questo non va dimenticato, ha fatto gli investimenti a gennaio importanti, prendendo 3 giocatori, almeno 2 dei quali sono titolari, però mi sembra che certi nodi non siano stati risolti, soprattutto dietro, insomma, Raffaele lo sa perché ne parliamo continuamente, a me dietro il Napoli continua a non piacere, ma da prima di Bilbao è una squadra che mi sembra estremamente fragile, che non ha risolto, e in mezzo al campo sicuramente poteva avere qualcosa in più in termini di qualità, ma secondo me l'emergenza rimane dietro. Sì, ma tu sei malizioso, no? Non ho sentito la risposta prima circa l'assenza di Benitez, una settimana di questi tempi. No, non è normale, sono d'accordo con te, bisognava almeno dire appunto motivi familiari, per precisare, perché sennò se no vale tutto, poi, nell'ambito delle interpretazioni. Anche perché sappiamo benissimo che poi magari questa cosa all'interno della squadra è stata gradita dai giocatori e accolta con tentare sul problema, però sappiamo che l'allenatore spesso è il primo modello, è il primo esempio. Sappiamo quante volte, per quanto sia assurdo, quante volte un allenatore che si promette per la stagione successiva a un'altra squadra crei un calo di concentrazione nei giocatori, che è una cosa assurda, perché voglio dire, uno è pagato fino al 2017, poi l'anno dopo può fare quello che vuole, e non è che il calciatore si deve impegnare di meno perché l'allenatore lo segna. Però quante volte questa cosa è successa e ha prodotto questo tipo di risultato? Per cui la massima focalizzazione da parte dell'allenatore, l'esempio che si dà continuamente, è decisivo. Detto questo, poi magari all'interno dello spogliatoio le sanno benissimo come sono andate le cose e non c'è nessun problema. Però qui è quello che mi interessa, ciò che c'è all'interno dello spogliatoio, l'obiettivo del Napoli. Dopo lo chiedo a Lauriamo, l'obiettivo del Napoli, insomma, De Laurentiis ha ripetuto molte volte. E ai tifosi io dico, fidatevi, perché in fondo il Napoli è da 5 anni, da 5 anni consecutivi in Europa. Unico club italiano, perché nessun club ha partecipato per 5 volte. Unico club italiano. Il record dei gol l'abbiamo fatto quest'anno nella storia. Quindi voglio dire, non credo che ci si debba o ci si possa lamentare. Lo scudetto, ebbene, prima o poi questo scudetto che tutti quanti vogliamo arriverà, però bisogna stare con i piedi per terra e saper costruire. Raffaele Auriemma, voglio chiederti se c'è qualcosa che non funziona in quello spogliatoio. Ma io credo che tutti gli spogliatoi hanno qualcosa che non funzioni al meglio, lo spogliatoio perfetto non esiste. Però dalle parti di Laurentiis bisogna evincere un particolare. Lui dice bisogna fidarsi, allora io mi fido, va bene, mi dice che questa squadra può lottare per lo scudetto, io mi fido. Poi chiaramente faremo le valutazioni al termine del campionato. Se De Laurentiis sostiene che Koulibaly, De Guzman, Mitu, David Lopez siano i calciatori utili comunque per questo progetto, chiaramente il campo è un giudice inesorabile. Tu dici, siamo lì ad aspettarlo. Dovrà rispondere alla gente che gli dirà: noi ci siamo fidati di te e l'abbiamo sbagliato. Sì, ho capito chiaramente il discorso. Grazie Raffaele, ciao. Grazie a voi, mille. Ciao Pierluigi, ciao. Ciao, un abbraccio. Per l'ennesima volta, Carlo, frase, il calcio è liquido, c'ha ragione della Premier, quando dice che il Napoli negli ultimi 5 anni è stato protagonista, e Walter De Maggio che subito gli conferma un dato vero, reale, no? Dice l'unica squadra italiana in Europa negli ultimi 5 anni. Però poi conta il presente, cioè questo c'è poco da fare. De Laurentiis per me rimarrà nella, comunque andrà a finire, rimarrà nella storia del Napoli un presidente straordinario che ha preso la società dal fallimento, dalla Serie C, l'ha riportata a livelli impensabili e con una continuità di rendimento che si era vista forse soltanto nell'era per la I. Però poi la gente vive nel presente, cioè oltre a dire grazie presidente eccetera, quando tu abitui le persone a pensare che la Champions sia una dimensione naturale, che lo scudetto sia l'obiettivo, poi se fai una squadra che magari arriva terza o quarta alla fine c'è qualcuno che non ci sta più. Ma già quest'estate c'erano stati dei segnali di contestazione che trovo comunque al momento abbastanza ingiustificati vista la dimensione attuale del Napoli. Ciao Pier, ti sentiamo ciao. Domani ciao Pierluigi Pardo, noi abbiamo ancora un'ora per stare insieme, per parlare 800 24 00 24, anche per divagare dopo il GR. Che facciamo lì? Ma che facciamo? Convocati. Prova il sinistro! È un palo incredibile! Guarin che la mette, forte tesa di tacco! Rodrigo! Palacio! Entranza con il tacco! 1-0! Poi D'Ambrosio morbido per Palacio, Icardi è solo, il cross per lui, Icardi! Sampdoria 0, Inter 1. E continuerò. Mario Boning, andare avanti tu a cantare, eh? Mario. Sempre Pronti, pronti, eccomi qua. Ciao, ciao Carlo. Vuoi andare avanti tu a cantare? Amala, pazza intera Amala. Sì. Ma deve tornare allo stadio, deve tornare allo stadio. E infatti torna, domenica. Dopo due anni. Dopo due anni, torna questa canzone che è lì. Cosa dici? Col Sassuolo. Ma io sono sul cellulare anche, no? Chiaramente è ritornello più piacevole, no? Amala. E ecco, ormai sono quelle canzoni che identificano la squadra, è giusto che torni, forza Inter. Sei fiducioso? Sei fiducioso? Ti piace? No, guarda, sono fiducioso se Mazzarri smette di pensare di allenare la regina, ecco, questo sarei più contento, però sì. Voglio dire, la squadra c'è, per il campionato italiano può andare bene, ecco. Si dice che è un Inter da Mazzarri. Sì, esatto, un Mazzarri che però vorrei vedere un po' più spregiudicato, insomma, fare qualche tiro in più. La prima partita contro Torino abbiamo fatto uno o due tiri in porta, adesso io credo, quindi l'Inter, mi aspetto un Inter un po' più divertente, un po' più garibaldina, ecco, più in modo che i tifosi vadano e si divertano anche un pochettino di più. Sì, Mario, invece, mondiale di basket ed è per, al di là di pazza Interama, è per questo che ti abbiamo chiamato, passano un po' sotto traccia, ma sono in onda sulla Rai di Viva Sport Italia, ma siamo adesso ai quarti di finale. Mi fai un rapido riassunto? Cosa è successo fin qui? Ma è successo che hanno le due squadre favorite, Stati Uniti e Spagna, hanno confermato la loro potenza, dove probabilmente saranno le due grandi finaliste. Direi che grande sorpresa della Slovenia, che ha fatto un grandissimo mondiale, così la Serbia fino alla partita con la Grecia, dove poi è riuscito a interpretare bene la partita, dove sembra invece la Serbia diventasse la delusione. Per quanto riguarda la Turchia, sì, buon mondiale, a dire sicuramente per merito di Ataman, che ha ricompattato un gruppo che sembrava assai disunito. Francia mi ha sorpreso, perché nonostante la mancanza di un califfo come Parker e Noah, ha fatto abbastanza bene, anche se poi adesso va a incontrare la Spagna. E quindi direi che tutto sommato buone cose, ecco, da dire buone cose, un buon mondiale, divertente, ho visto delle buone partite, anche le squadre africane mi hanno sorpreso, direi tutto bene, confermate anche le protagoniste. Confermate anche le protagoniste, io faccio tifo per la Serbia, che sai, Sascio Giorgiovic è un mio carissimo amico. Certo, anch'io, io sono tifo per la Grecia, a dire il vero, poi uscito. Sì, tu sei tifo della Grecia, perché da quelle parti sei ancora un idolo, esatto. A Salonicco ti stendono i tappeti di rose, questo lo sanno tutti, però Serbia-Brasile ce la possiamo fare domani. Guarda, io credo che ho visto che ha recuperato Krstić, che era stato tenuto misteriosamente in panchina, credo per vari problemi, dopo Mizzo si era stato creato il caso Krstić. Sì. Sotto canestro i brasiliani sono forti, tra Splitter, Nenè e Varjão sono molto pericolosi, anche con la banda di non lunghi, con i piccoli, diciamo. Partita bella, dipende, sai, questi mondiali, come tutte le partite secche, lasciano grandi possibilità di risultati sorpresi. Io adesso ti darei come favorito il Brasile, però veniamo da un più 20 di Serbia contro Grecia, che veniva a sua volta da un imbattuto girone, insomma, quindi grande equilibrio. C'è un ascoltatore che ti tira le orecchie per i tuoi commenti su Boris Dio, cosa hai detto? Ho detto che è un po' sovrappeso, io credo aver detto nulla di straordinario, ma tanto di cappello a uno che è sovrappeso, che ha vinto l'anello. E poi chiedo scusa, ma io non sono così appassionato di NBA, e quindi io mi esalto di più per una giocata di Diamantidis che per una schiacciata di Derrick Rose. Sì. Quindi ecco perché io conosco molto di più il basket europeo e del basket NBA, di questo me ne scuso, però non mi si può fare una colpa se io non mi esalto per una giocata di giocatori NBA. Di sicuro, la schiacciata di Derrick Rose difficile, mi sembra che non si alzi da terra in questo momento. Derrick Rose fuori da due anni. Un giocatore che molto popolare, che però ecco, per me io mi esalto di più con Spanoulis, Diamantidis o il nostro maestro che è Jasikevicius, ecco, non i giocatori NBA come possono essere Durant, LeBron James o altri. Ecco, io preferisco vedermi un bel pick and roll di Diamantidis con qualcun altro rispetto a una giocata di Kevin Durant. questo è il mio gusto, è il mio gusto personale. No, ma è anche, come sai, è anche il mio, come sai, è anche il mio. Esatto. Chiama la pallacanestro, chiama la pallacanestro tecnica e tattica, ama l'Eurolega e ama il nostro maestro supremo che è Obradovic, chiaramente. Quindi ecco perché vediamo una pallacanestro particolare, cioè pallacanestro europea. Sì. Sono due derby europei nei quarti di finale, Lituania-Turchia e Francia-Spagna. Lituania-Turchia meglio. Beh, cominciamo con Francia-Spagna, direi la Spagna la vedo imbattibile, ecco, solo l'atletismo degli Stati Uniti può impensierirla. L'altra, quella che verrà oggi alle 5, Turchia-Lituania, bella partita. Ho visto bene Valenciunas della Lituania, straordinario nei quarti di finale, veramente straordinario. Però la Turchia, l'abbiamo detto, Ataman ha dato una compattezza, un'identità forte ai turchi, non più clan ma squadra vera, e quindi sarà una partita da godersi, così come la squadra lituana è molto molto compatta, nella bella giocata anche per loro. Senti Mario, la nazionale italiana invece a questi mondiali non c'è perché non si è qualificata, ha vissuto un'estate travagliata per tutti i casini su Hackett eccetera, sì, eccetera, sì, sì, però tutto sommato è una squadra che, ne parlavamo l'altro giorno con Flavio Vanetti, quando le partite che deve vincere le vince, si deve qualificare, si qualifica, è una squadra che sta dimostrando di grande personalità, e mi pare di poter dire che in questo momento il miglior giocatore italiano che c'è in campo è Gigi Datome. Perché gli altri... Gigi Datome purtroppo no, è Gigi Datome, ma anche Pietrone Radori, insomma Alessandro Gentile, mi piacciono i due Gentile, cioè, io direi che l'Italia ha grandi talenti. Poi sono un po' impensierito per Datome, che sembra che venga tagliato Detroit, insomma queste sono preoccupazioni. Aspettiamo che anche l'Italia abbia quella compattezza che ha trovato la Turchia, che ha trovato la Lituania, che ha trovato la Slovenia, perché con tre giocatori come Bellinelli, Gallinari e Bergnani non possiamo rimanere fuori dal grande giro. Ecco, l'Italia merita il mondiale, abbiamo visto che il basket che c'è in Europa, noi questi mondiali lo possiamo giocare, lo possiamo sviluppare, e abbiamo anche dei buoni giovani. Da parte mia, dopo le ultime cose che sono uscite sui giornali, sul che anche il calcio sta guardando a rendere più italiano il campionato, piacerebbe che ci fossero più italiani in campo anche nel campionato di pallacanestro. Gallinari però un po' di preoccupazione c'è, è un anno e mezzo che è lontano dai campi, cosa succede, come si fa a rientrare, cosa dovrà fare per rientrare? È un po' il discorso di Rose, più si aumenta il tempo di recupero più c'è il timore di come sarà il rientro. Io sono convinto che proprio per come è formulata l'NBA, cioè che ha una lunghissima stagione regolare dove ci permette a tutti, perlomeno ai grandi giocatori, di carburare, di trovare il ritmo, non ci sono partite subito importanti, le prime 30-40 partite sono diciamo accademia. Ecco, quello sarà il momento in cui Danilo Gallinari rientrerà e troverà il suo ritmo. Poi non ho problema sul fatto che trovi il gioco. L'unica preoccupazione è che, come lui ha sottolineato, chi lo ha operato non ha operato al meglio, e questo può essere l'unica preoccupazione. Però l'età è giovane, insomma dell'88, quindi io sono convinto che vedremo un grande Danilo Gallinari. Per finire, della nazionale di calcio di Conte ti piace invece? Da quella di Pianigiani a quella di Conte, gioca stasera, ti piace? Non me ne frega nulla perché insomma le partite di qualificazioni hanno con la Norvegia, voglio dire, no? Anche qui mi verrebbe una battuta che se entriamo in campo io e te potremmo giocare anche io e te, ma è una battuta, vuole essere ironia, forza, un po' di ironia. Ecco, non sarei così preoccupato a partire stasera. Io preferisco le partite veramente importanti, no? Dove un europeo mondiale, quelle sono le partite che mi piace vedere. Ciao Marione, grazie. A te, a voi tutti, ciao Mario Boni. 800 24 00 24. A proposito di Inter, sto sempre dando un'occhiata agli stipendi, oggi è il mio trip giornaliero. Inter, Kuzmanovic 1,5 milioni all'anno non è poco, però dall'altra parte del naviglio c'è Zaccardo che ne prende 900.000 dal Milan, e anche questo non è male. La Sampdoria paga il terzo portiere, che è stato portiere che ha giocato la finale di Coppa del Mondo, titolare dell'Argentina, Romero. Ebbene, attualmente la Sampdoria è il terzo portiere e chiama 1,7 milioni di euro l'anno. Pino, buongiorno. Io andrei a scalzo a giocare comunque, vabbè. Sì. Anche molto meno. Sa che la Fiorentina ha preso Micah Richards, che è dal Manchester City 3 anni fa, era uno dei più quotati, era l'astro nascente della difesa dei Leoni d'Inghilterra, uno dei difensori più visto i fenomeni, sì, al circo, però, sì, ha giocato 9 partite in 2 anni e adesso ne becca 1,7 dalla Fiorentina. Sì, comunque Carlo, ciao, buon pomeriggio. E niente, io vorrei rimanere calmo perché ogni volta che sento delle situazioni strane, nel senso che di Chiellini che non è rimasto in nazionale e si alza il polverone dei giornalisti, voglio dire non è un luogo comune dei giornalisti, però qualcuno mette sempre questo coltello all'interno della o della Juventus o della Nazionale quando stanno facendo molto molto molto bene secondo me. È iniziato adesso, un'era che inizia adesso di Conte ha fatto quello che poteva fare in 3 anni con la Juve, ha fatto quello che abbiamo visto. No, ma infatti ha un credito, ne parlavamo prima con Pardo, no? A tutti quanti abbiamo aperto un conto corrente molto profondo con tanto di fido per Antonio Conte, non in soldi ma in fiducia. E quindi andiamo avanti su questa strada, abbiamo sempre detto scelta migliore non ci poteva essere. Quanto a Chiellini, tu dici polverone, io dico hai ragione, non da parte nostra però, perché io sono 2 giorni che dico secondo me la vicenda Chiellini è abbastanza pretestuosa, nel senso che non c'è oggetto da contendere. Secondo me dovrebbe essere normale che un giocatore che non è in grado di giocare perché è infortunato in maniera acclarata, non è certo un caso Hackett questo, infortunato in maniera acclarata, ebbene torna a casa sicura e tornerà la prossima volta. Cioè non, secondo me tutto questo è nato anche per il fatto che è coinvolta la Juventus, Conte ex allenatore della Juventus, poi come sottolineava prima Pardo c'è la storia, cioè è stato anche il debutto di Tavecchio che non è esattamente il presidente federale che la Juventus avrebbe voluto, insomma ci sono molte storie che si intrecciano. Su Chiellini io direi che non c'è argomento del contendere. Per quello che riguarda Giorgio è capitato questo episodio in maniera molto serena, sicuramente ci servirà anche l'esperienza per perfezionare quando capitano queste situazioni ed essere migliori la prossima volta nel gestire la situazione da parte nostra e da parte della società, ecco, da parte della Juventus. Detto questo, ribadisco che io qui sono per unire e non per dividere. Se vogliamo fare qualcosa di importante è l'unione che fa la forza e non la divisione. Ecco. Per quanto riguarda il discorso Chiellini, credo che a Giorgio avrebbe fatto piacere rimanere qui con noi, perché soprattutto era la prima parte del ritiro, il primo ritiro del mister e ci teneva a far parte, perché conosciamo tutti Giorgio come ha fatto e come vive il suo lavoro. Però da parte della Juventus credo sia stato il bisogno e la reale necessità di capire le condizioni di Giorgio, perché abbiamo una serie di partite ravvicinate dove purtroppo dietro siamo contati e adesso dobbiamo vedere anche le condizioni di Barzagli al rientro. Quindi. Ma io non ho mai parlato con Marotta, ma non c'è un caso Chiellini per noi. La Juventus è la prima squadra italiana in Champions, come possiamo avere rapporti non corretti e non seri con la Juve? Dunque, sul caso Chiellini abbiamo sentito in rapida successione Conte, che ormai parla un po' come Garibaldi, sono qui per unire l'Italia e fare gli italiani, abbiamo sentito Bonucci e abbiamo sentito il presidente federale Tavecchio. Vi leggo, prima di parlare con Francesco da Piacenza e Paolo da Firenze, bravo Franco Piantaneda che me lo fa notare, l'ho visto anch'io sui siti, la notizia che è uscita ora era bella, tra l'altro ve la do subito. Schumacher torna a casa per la riabilitazione, lo ha comunicato la manager Sabine Kemm, che in tutta questa vicenda è l'unica voce a cui prestare affidamento, da quando è successa questa cosa, che continuo a dirlo, stop alle illazioni, stop alle interviste carpite qua e là, l'unica voce che conta è quella della signora Schumacher, che non parla mai, di Sabine Kemm, che è la portavoce ufficiale di Schumi. Ebbene, torna a casa per la riabilitazione, lo ha precisato in un messaggio, le condizioni di salute del campione non sono cambiate, la strada da percorrere resta lunga e difficile, ma intanto Schumi torna a casa. 800 24 00 24. Simone Pepe, 3 partite negli ultimi 2 anni, 1,3 milioni l'anno, mica male. Cioè Morata, sempre la Juventus, che ne guadagna uno, all'Inter 1 milione per Riccardi, e soprattutto c'era uno dei giocatori che avrebbero davvero spostato quasi tutto nel mercato, Cuadrado, valutato una cinquantina di milioni dalla Fiorentina, che all'anno guadagna 1 milione. Che numero! Francesco Piacenza, 800 24 00 24, invece questo è il vostro numero. Dica Francesco, buongiorno. Ciao, Carlo, ti do del tu perché ci sentivamo anni fa, è sempre un piacere sentirti. Volevo chiederti un paio di cose. La non convocazione di Balotelli sta nelle parole di De Rossi e Buffon. Poi un'altra cosa, il tecnico della nazionale sponsorizzato Puma, un si sentirà la Puma in diritto di chiedere qualcosa al coach? E poi, da ottimo conoscitore del calcio quale sei, Carlo, il campionato di Serie C, Piacenza dopo anni si riaffaccia nei professionisti, si parla che non ci sono spettatori a vedere le partite di Serie A, pochissimi in Serie B. In Serie C il campionato spezzatino si comincia il venerdì, si gioca la domenica alle 12:30, si gioca il lunedì sera, ma dove va la gente? Dove va? Al cinema, e fa bene Francesco. Vanno al cinema e fanno bene, tra l'altro non hanno neanche bisogno della tessera del tifoso per entrare al cinema. Ma allora, partendo da qui, continuiamo a dire e a leggere anche nuove proposte di Tavecchio, che ha chiesto aiuto al governo per ridurre il numero degli stranieri. Si parla di rose di 25 giocatori in Serie A, di cui 8 devono provenire dal vivaio. Si parla di tutte queste cose che secondo me sono sbagliate e sono pura demagogia, perché io tengo il mio pensiero secondo cui in Serie A ci deve essere la massima libertà di movimento da parte dei presidenti e la massima concorrenza tra i giocatori, italiani o stranieri che siano, nel rispetto delle normative che tutti noi osserviamo, delle normative comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori. Insomma, siamo nel 2014, dunque secondo me tutte queste cose hanno poca ragione di essere e di esistere. Il vero problema sarebbe quello di riformare campionati che ormai non contano nulla, che sono spesso fonte o strumento di malaffare, di riciclaggio, club che sono ostaggio dei tifosi, gente che lucra su cose più o meno lecite o pulite. Insomma, una grande giungla che andrebbe rasa al suolo e poi riformata secondo criteri davvero moderni, cosa che naturalmente non verrà fatta. Una battaglia importante sarebbe quella, ma stiamo a guardare cosa fanno i tedeschi, cosa fanno i francesi, cosa fanno gli spagnoli, cosa fanno negli altri campionati, stiamo a guardare in casa degli altri. In casa degli altri succede una cosa che non sarebbe molto difficile praticare anche nel campionato italiano, una cosa che l'Udinese fa a livello internazionale, cioè come sapete l'Udinese controlla altri club in cui fa giocare i suoi giocatori, eccetera eccetera. Il discorso della squadra B che partecipa ad un campionato professionistico che è collegata ovviamente al club di appartenenza e che è permeabile rispetto alla prima squadra. Questo sarebbe un discorso, questa sarebbe una prima riforma seria da fare, cioè permettere ai club di avere una squadra B, appunto, che gioca un campionato professionistico in cui far crescere i giovani e in piena sinergia con la prima squadra. Invece no, continuiamo a parlare, rosa di 25, 8 italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine tanto non si farà nulla di tutto questo. Tutti convocati. Un po' che la palla a Matano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, buonasera a tutti. Mi hanno detto che, essendo consigliere federale, può fare quello che sta facendo, quindi a me non crea nessun problema, anche perché sapete benissimo che sul campo comando io e calciatori. Così Pirlo, di cui parlo tra un attimo, Paolo Firenze, Michelangelo da Perugia in linea, 800 24 00 24. Conte questa mattina nella solita intervista prepartita alla Rai, qui comando io, lo Tito, non è un problema, ma ha parlato anche, io avevo aperto la trasmissione dicendo, domandandomi e domandandovi e domandando ai nostri ospiti che cosa deve fare Verratti per titolare a Paris Saint-Germain, come sapete, per giocare titolare anche nella nazionale italiana, visto che si dice non ci sono giovani, non ci sono giovani di qualità, ne abbiamo uno, sta in panchina quando sta in panchina, perché ai mondiali rischia di non essere convocato. Comunque, sul discorso Pirlo, Verratti, De Rossi, Conte ha confermato, sì è vero, uno tra De Rossi, Pirlo e Verratti è di troppo, De Rossi lo vedo centrale in grado anche di scalare tra i difensori, dunque la scelta sarà tra Pirlo e Verratti. Cosa deve fare Verratti per giocare in nazionale? Ebbene, come al supermercato, prendere il bigliettino, o dal dottore prendere il bigliettino, sedersi in anticamera, aspettare che Pirlo decida di dire addio alla nazionale, perché questo è il discorso. Paolo Firenze, buongiorno. Salve, salve Genta, è un bel arcano anche quello. Ascolti, io le volevo proporre un altro arcano invece. Siccome io per metà sono fiorentino e per metà sono interista, è una cosa un po' strana. Ma bisogna decidersi, Paolo. Fin da piccolo. No, ma sono due amori disegual, come dice. Disegual. Allora, ma io la cosa mi sono sempre domandato, no? Ma uno come Zenga, no? È stato insomma il leader indiscusso, carismatico, portierone dell'Inter, della nazionale. Ma secondo lei come mai non è mai arrivata alla panchina dell'Inter? E si sa bene che lui mirava alla panchina dell'Inter. Ha fatto di tutto per riuscire ad arrivare ad allenare la prima squadra dell'Inter. Ho capito, Paolo, anch'io, anche a me piacerebbe fare un giro nello spazio. No, considerato volevo dire il coraggio che ha avuto Moratti all'epoca, dopo l'avvento Mourinho, insomma, dopo che Mourinho ha deciso di andare via, di prendere Stramaccioni. Ma volevo dire, arrivati a oggi, perché io poi sono di quelli che sono per dire le cose, come si dice, pane e vino al vino, no? Ma però allora e mi dica. Stramaccioni, lei pensa che Zenga potesse fare dei disastri maggiori, cioè. Beh, Mazzarri vediamo, non mi sembra che fino adesso abbia fatto tutti questi disastri. Ha giocato l'anno scorso con una squadra non adatta a lui, diciamo così, ha fatto un campionato da 6, una stagione da 6 in pagella, secondo me. Forse 6 e mezzo. Quest'anno ha appena iniziato, vediamo come finisce. Stramaccioni certamente non era stata, con il senno di poi, una scelta felice, ma in quegli anni di scelte felici ne sono state fatte poche, o quantomeno di scelte condivise. Ma onestamente, lei chiamerebbe Zenga ad allenare l'Inter? Io no. Ma io l'avrei provato, perlomeno. Sì, ma per quale ragione? Qual è il curriculum? Ma anche solo per una... Cioè, ma se chiami Stramaccioni... ho capito, cioè, però Stramaccioni... Considerando anche il rapporto a quello che avrebbe potuto chiedere Zenga rispetto a uno Stramaccioni, certo, per carità, non lo metto in dubbio. Però io sono convinto che Zenga, anche per prestigio, per me ci sarebbe andato. Ma sarebbe andato di sicuro, quale allenatore non andrebbe ad allenare l'Inter? Il discorso è, l'Inter avrebbe fatto bene a prendere Zenga come allenatore, cioè mi sembra che il curriculum di Zenga come allenatore non mi sembra all'altezza di una squadra come l'Inter. Lei dice Stramaccioni, ok, Stramaccioni è una scelta diversa, è uno che molto giovane, che ha fatto allenatore nelle giovanili a buon livello, può essere un'idea, può essere una scelta. Lo stesso Pippo Inzaghi è chiaramente una scommessa, è chiaramente un allenatore professionista debuttante a livello dei grandi, certamente. Però se lei mi dice Zenga, che fa l'allenatore da diversi anni, che cosa ha fatto per andare sulla panchina dell'Inter, oltre al fatto di essere una indiscussa bandiera del passato dell'Inter, ecco, io non vedo un particolare titolo di merito di Zenga come allenatore per andare ad allenare l'Inter, sinceramente. Poi questo è quello che penso io. Mi sembra un allenatore in questo momento marginale rispetto al grande calcio, e il suo curriculum è lì a dimostrarlo, insomma. Questo è il mio pensiero, Poi so che ci sono molti interisti che vorrebbero Zenga. Fosse un interista e volessi un ex Mihajlovic, poteva essere una scelta più lungimirante. Michelangelo Perugia, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie, c'è chi mi chiede dove ho preso tutti i dati relativi agli stipendi dei calciatori. Sulla Gazzetta dello Sport di ieri c'è questa inchiesta in cui vengono pubblicati tutti gli stipendi della Serie A rosa per rosa. Ad esempio al Genoa, sa chi guadagna di più al Genoa? Matri è l'unico che prende 1 milione. Tutti gli altri sotto il milione. Mi dici Esharawi quando guadagna? Vuoi sapere Esharawi? Te lo dico subito. 2,4. Scadenza del contratto 2018. Sai chi prende di più al Milan? I due giocatori che guadagnano più soldi al Milan? Ah? E l'altro? E l'altro, è quello che è appena arrivato. Fernando Torres. Prendono gli stessi soldi e sono 4 milioni all'anno. Io avrei fatto il meno di Mixes, sinceramente. Ho capito, ma chi te lo prende a 4 all'anno? No, esatto, il problema è quello, chi te lo paga 4 milioni all'anno? No, perché, anche perché su tutta la telenovela Robinho si è fatto un sacco di cinematografia, esatto, ma beccava esatto, 4 esatto. E mezzo all'anno. Tu puoi anche dire, ok, Robinho non mi serve più, Robinho, vai dove vuoi. Ti pago un biglietto per il mondo, vai dove vuoi, trovati una squadra. Trova una squadra che gli dà 4 milioni e mezzo. Trovala. È difficilissimo. Dimmi. Volevo proprio a proposito di Esharawi. Io penso che sia veramente per me è uno dei più forti giocatori in prospettiva dell'Italia. Ma nel modulo di Conte, secondo te, può avere futuro? Perché non mi sembra che sia un po' emarginato, perché io dico forse non è una prima punta, ma forse non è un giocatore che è da recuperare a Zaza. Io lo vedo molto più superiore rispetto a Zaza, ma secondo me è un giocatore un po' diverso rispetto a Zaza. Conte secondo me può certamente, anzi deve trovare un futuro per Esharawi. Poi siamo sempre lì, di Esharawi abbiamo alcune immagini, no, che sono quelle di ormai 2 anni fa, quella spaventosa mezza stagione nel Milan, in cui ha segnato, ha guidato il Milan, ha fatto di tutto, sembrava davvero la nuova grande scoperta del calcio italiano, la polizza per il futuro. Però stiamo parlando anche in questo caso di un giocatore che praticamente da un anno e mezzo non gioca. L'anno scorso ha giocato un pugno di minuti, poco più di 200 minuti nel campionato di Serie A, quindi io credo che Conte abbia Esharawi nei suoi piani, certamente, perché mica è fesso. È un giocatore che, per quello che abbiamo visto, può essere devastante, no? Può essere certamente il più forte attaccante italiano, uno dei più forti attaccanti italiani, poi la posizione decidete da voi. Però abbiamo negli occhi l'immagine di quel giocatore, ed è un'immagine che comincia ad essere sbiadita. Quindi Conte ha certamente Esharawi nei suoi pensieri e nei suoi piani. Giustamente però vorrà vedere un filo di continuità in campionato. Penso che Esharawi, se conferma i suoi progressi, se si conferma quello che abbiamo visto anche nella prima giornata, se conferma quei lampi, se conferma quella condizione, si conferma dal punto di vista della continuità, beh, sarà titolare azzurro da qui a tanto, no? Quindi certamente il Esharawi è nei piani di Conte, e mi sta perfettamente nel modulo di Conte. Non vedo perché se con Immobile, con Zaza, con Destro, ad esempio, a me una coppia di Esharawi Destro piacerebbe da morire, a me. Nicola Ferrara, buongiorno. Sì, ciao Carlo, grazie. Ciao. Conte nazionale. Sì. E sui giovani anche, Verratti. Cosa deve fare Verratti per giocare in nazionale? Spiegamelo tu. Sì. No, nel senso che secondo me già qualche piccolo cambiamento l'ho notato, vedendo la prima partita già come amichevole. Però già vedere i vari attori, Florenzi questa sera probabilmente, De Sciglio, Darmian, Immobile, Zaza, cioè un vento nuovo forse c'è, non è ancora sì, quello. E allora qualcuno mi deve spiegare anche perché adesso siamo tutti depressi col fatto che i settori giovanili italiani, il calcio italiano non produce più buoni giocatori. Li produce buoni giocatori, quelli che hai citato tu sono buoni giocatori, certamente bisogna capire qual è il loro livello in valore assoluto, a livello di grandi manifestazioni, ma il calcio italiano giocatori interessanti, quantomeno interessanti li produce. Quanto al vento nuovo, tutti quelli che giocano stasera, salvo Zaza, erano già stati comunque convocati da Prandelli, no? Erano già nel giro azzurro, cioè non c'è una rivoluzione copernicana. No? No, rivoluzione no, però qualche cosa magari di nuovo, non so, anche di Sarabia, che è infortunato, però in un ipotetico 4-3-3, un cambio di modulo magari largo potrebbe stare. Non lo so, ma certo, anche quella può essere un'idea, ma è già stata paventata da, certo, da, è stata avanzata da Conte, il Shaarawy esterno di sinistra. Vediamo, un giocatore molto, molto eclettico, però da qui a dire Conte è arrivato, cioè il vento nuovo ha fatto la rivoluzione, beh, mi pare di no, almeno a leggere la lista dei convocati, la formazione e anche i propositi per il futuro, perché siamo qui ancora a discutere della coesistenza o impossibilità di convivenza tra Pirlo e Verratti. Quindi questo è il discorso, e l'ha detto Conte, si sceglie tra uno dei due. Pirlo, che si era già ritirato, ha fatto retromarcia. Io continuo a pensare che il vero vento nuovo sarebbe quello di lasciare vacanti quelle posizioni che per tanto tempo sono state detenute senza possibilità di smentita da due grandissimi giocatori come Buffon e Pirlo. Tutti convocati. Triplo 6-3 nella notte e il croato Cilic può urlare, come avete sentito, al cielo di New York. Ciao Stefano Meloccaro, come stai? Caro Carlo, buon pomeriggio, molto bene, molto bene, molto bene. Senti, Cilic che batte, triplo 6-3, la grandissima sorpresa di questi US Open, no? Stefano Nishikori, 24 anni, primo giapponese ad arrivare così in alto. Beh, ma tutti e due però, cioè poi alla fine, cioè prima delle semifinali, dai Carlo, se ti avessero detto, senti, ma da una parte Federer e Djokovic, dall'altra sì, Cilic e Nishikori, tu avresti dato del cretino a chiunque, certo, ti avesse detto che non passavano tutti e due, cioè io l'ho fatto, l'ho scritto via Twitter, mi hanno inondato poi di insulti, porti sfiga, è colpa tua, cioè, è successo veramente qualcosa di clamoroso. Oddio, per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva accadere. Ma meno male, ma meno male che succede, Stefano. Altrimenti ci passa la voglia, no? Se già sappiamo tutto, se fosse già tutto scritto. Ma sai, sono 10 anni che è tutto scritto, però. Questo è vero. Era dal 2005 che era tutto scritto, perché alla fine l'unico si era messo di mezzo Del Potro una volta, non si sa perché, solo perché Federer fece il cretino quella sera lì, uh-huh, che decise che gli doveva tirare sul dritto perché gli doveva far passare la voglia col dritto, ma insomma se no era tutto scritto da 10 anni, dunque abbiamo assistito a qualcosa di incredibile. Poi alla fine tra i due, cioè tra i due newcomer, che poi tanto new non sono perché uno ha 24 anni e un altro ce n'ha 26, sì, ha vinto quello che ha retto un pochino meglio la pressione di giocarsi la partita più importante della vita. Senti, ma hanno un futuro questi due? Tu ricordi che 25 anni, 24 sono pochi, ma non pochissimi. Sono meteore o saranno qualcosa di serio per il futuro? No. Cioè, hanno un futuro, e come? Perché un po' loro, grazie anche e soprattutto agli allenatori che si sono trovati, cioè uno Chang e l'altro Ivanisevic, no, perché la storia è meravigliosa da questo punto di vista, hanno messo a posto quelle due o tre cose che dovevano mettere a posto, ma non di tennis ovviamente, di testa, di saper giocare il momento importante, la motivazione, di non aver paura, e questa è la prima cosa. La seconda cosa è che comunque più scalfisci il regno dei forti, il famoso, i Beatles, chiamali come vuoi, insomma, i Pooh, perché 3, 4 non si sa quanti sono, però più scalfisci quel regno lì e più anche tutti gli altri capiscono che si possono battere Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Il futuro ce l'hanno sicuro, cioè Cilic visto ieri difficile pensare che non abbia un futuro, anche Nishikori. Difficile pensare che non abbiano un futuro, probabilmente non ha più un grande futuro, dispiace dirlo, ma ne abbiamo parlato anche altre volte io e te, Stefano. Roger Federer, io non credo che torneremo a vederlo sul gradino più alto del podio di un grande slam. Allora, terra battuta escluderei, cemento purtroppo escluderei anche lì, perché voglio dire, se non sfrutti l'occasione di stavolta qui, poi quando ti ricapita, E non direi che sull'erba, però alla fine comunque i conti con Rogerino come a Wimbledon ancora per un annetto, forse due, li dovremo fare. Però certo negli altri slam mi pare veramente difficile. Mi pare veramente difficile, sarebbe qualcosa di estremamente strano, di quasi anacronistico, come l'erba di Wimbledon. Quest'anno era successo qualcosa di estremamente strano, perché la sorte ti dà Cilic in semifinale, sì, Nishikori in finale, sai? Sì, hai capito? Però se poi non la sfrutti, ma sai, non è stata colpa di Federer, cioè Cilic ha giocato in maniera veramente, credimi, cioè è incredibile quello che lo stesso Ivanisevic ha detto, che non ci credeva neanche lui. Cioè, ha detto: il mio ragazzo ha giocato una finale come se fosse la 15ª finale di Slam, era la prima. Un'ultima cosa, Stefano, riguarda Serena Williams. L'altro giorno, guardando la partita con la pennetta, e guardando, allora, 2-2, secondo set, molto combattuto, la pennetta che sta in partita, e Serena che ha piazzato un 15-1, se non ricordo male, e ha chuso il set con un 20-5 di parziale. Lì mi sono reso conto che dopo una stagione piena di ombre, lì avrei scommesso qualcosa su Serena Williams. No, ma non solo una stagione, Carlo. Tu ti ricordi come si è presentata quel pomeriggio in doppio a Wimbledon con la sorella quando barcollava? Come no? Lì era qualcosa di strano, tra non so bene quale tipo di farmaci, se non altro. E francamente poi, capito, cioè risorgi in questo modo. Io credo che la forza di Serena sia ovviamente incredibile, e credo anche che per i prossimi 2 o 3 anni, a meno che non venga fuori qualcosa di clamoroso, se lei sta un pochino attenta a quello che mangia, perché le chiappe mi sembra che diventino sempre più grosse, sta un po' lievitando, tanto, sì. Ma tanto il campo da tennis è largo 9 metri e poco più, e lungo... Cioè tu dici, tra un po' lo occupa tutto, insomma. Sì, anche con quelle chiappone lì, secondo me, per i prossimi 2 o 3 anni, non credo proprio che ce ne sia per nessuno. È veramente clamoroso. Grazie a te, grazie a Stefano Menocchero, buon lavoro, grazie. No, ciao. Giovanni da Prato, buongiorno. Salve, buongiorno. Senti, io volevo spazzare una lancia a favore di Pirlo. Secondo me giocatori come Pirlo o Messi giocano finché sono ad alti livelli, finché Pirlo è alto livello gioca in nazionale e anche nella Juve. Poi Verratti ha scelto lui di andare in un campionato mediocre, dove resterà mediocre come giocatore, perché non farà salto di qualità. No, aspetti un attimo, allora campionato mediocre, francese è mediocre. Il campionato francese sta comunque crescendo, ma poi mediocre tra mediocri, Verratti gioca titolare in una squadra che è tra le... in Francia, però. Cioè, non è che si misura con altre, no, Champions con altre League, squadre. No, in Champions League si misura, sì, con tutte. Ma in Champions League sono 4 partite. Cioè, io parlo di un campionato, lui è passato da una Serie B a una Serie A francese, che è una Serie B. C'è il Paris Saint Germain e poi c'è il vuoto. Paris Saint Germain, non che di questi tempi il campionato italiano sia esattamente il Giardino delle Rose, ma comunque io stiamo parlando di un giocatore che gioca in una super squadra che ha una grandissima concorrenza, no? Perché lei sa qual è la rosa del Paris Saint Germain e quali sono le possibilità di acquisto del Paris Saint Germain. Se una squadra di questo tipo, che lasciando stare il percorso nel campionato francese e quello che trova la domenica nel campionato francese, se una squadra di questo tipo, il cui obiettivo dichiarato è essere tra le prime in Europa, ti prende, ti sceglie e ti elegge a titolare non solo nelle partite del campionato francese o in Coppa Italia, ma nel suo territorio di caccia prediletto, che è la Champions League, beh, allora vuol dire che in te ci crede, che in te vede comunque un giocatore cui tra l'altro affidare le chiavi della squadra, perché sappiamo qual è il ruolo di Verratti nel Paris Saint Germain. Allora Pirlo deve, hai detto Pirlo e Messi lascerei stare, è ancora molto giovane, chi lo discute, eccetera eccetera eccetera. Su Pirlo e su Buffon farei invece un discorso diverso, sono ancora dei grandissimi giocatori, ma mi piacerebbe vedere in questo momento, e condivido l'opinione del maestro Bartoletti dell'altro giorno, espressa su Buffon, ma io ci aggiungo anche Pirlo, mi piacerebbe vedere questi due grandi giocatori che consegnano il ruolo, la maglia, la loro storia nelle mani di un commissario tecnico incaricato, dopo anni di fallimenti, di fare una nazionale nuova. Perché preferisco vedere un giocatore che sceglie di deporre le armi quando è ancora un grande giocatore, quantomeno per quanto riguarda la nazionale, visto che il prossimo appuntamento è tra due anni, quando ci saranno gli europei, piuttosto che vederli morire per consunzione. Questo è il mio pensiero, ampiamente opinabile, lo so, ma è il mio pensiero. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattoni in redazione, tutti convocati domani pomeriggio dopo il GR delle 2. Ciao. Sono ostaggio, sono ostaggio. Le grandi spedizioni tedesche degli anni 30 e 40 erano destinate al fallimento. Troppo impegnative. Erano imprese militari, azioni colonialistiche con sperpero di materiali. Ingenti sforzi logistici hanno precluso la capacità di agire in modo rapido e spontaneo. Per il Nanga sono necessari accampamenti ad altitudini intermedie, materiali, disciplina. Anche. Preparazione e istinto vanno di pari passo. La montagna è caotica. Freddo, caldo, neve, rarefazione, valanghe. Solo uno di questi fattori è sufficiente per stravolgere qualsiasi piano.